cos'è quest'estate di Roberta Giordano. Ben svegliate, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a qualsiasi ora vi siate alzate. L'importante è che siate qui puntualmente. Ma cos'è quest'estate? Roberta Giordano con voi anche oggi per capire quali sono i fatti che ci possono interessare in questi giorni d'estate, di calura che dovrebbe smettere. Abbiamo sentito prima le previsioni del tempo. In realtà ci sono delle notizie contrastanti su quello che sarà nei prossimi giorni. Vedo qui controordine torna al caldo, poi sentiremo, parleremo anche di meteo, perché prima di tutto ci occuperemo fra i temi di oggi dei cambiamenti climatici. E voi direte ci risiamo, nel senso che a volte diventa appunto uno di quei temi che ogni tanto si trattano, ci si allarma un po', poi qualcuno invece nega e dice ma no, in realtà si tratta di cicli naturali, e poi non se ne parla più per un po' di tempo. Lo spunto è dato da questo studio che è stato anticipato al New York Times, uno studio della comunità scientifica americana che conferma che effettivamente il riscaldamento del clima c'è, e forse qualcuno se ne sta accorgendo in questi giorni, ed è assolutamente dovuta alle attività umane. Non è un ciclo naturale, non è come i dinosauri sono scomparsi, poi succederà qualcos'altro. No, pare che sia effettivamente dovuto alle attività dell'uomo. E tra l'altro questo incide anche poi su, per esempio, mi pare che il miele sia piuttosto a rischio. Le api, sapete che sono le prime a risentire dei cambiamenti climatici, sono il primo campanello d'allarme. Ne parleremo con diversi esperti, sentiremo anche se effettivamente il caldo sta attenuandosi oppure no nei prossimi giorni. E poi c'è una proposta piuttosto interessante, anche bizzarra per certi versi, di cui parleremo a proposito di cambiamenti climatici. Tra l'altro i cambiamenti climatici influenzano ulteriormente le migrazioni, perché se ci sono per esempio dei territori che si desertificano e quindi è difficile poi viverci, chiaramente le persone che lì vivono, le popolazioni, tendono a migrare altrove. Poi parleremo anche del doping dei tortellini, questo caso che ha riguardato la nostra tennista Sara Errani. È possibile effettivamente che dei medicinali proibiti caschino in una minestra? Ne parleremo con un esperto di antidoping. Fra i vari temi, per alleggerire a un certo punto, parleremo anche di un sondaggio secondo il quale anche per i francesi, circa il 40%, l'italiano, la lingua italiana, è la lingua più sexy, più sensuale del mondo. Questa è una partita che dura tanto tempo tra il francese e l'italiano. Voi cosa pensate? Ve lo chiedo anche perché lo sapete che su tutti i temi c'è sempre la possibilità per voi di intervenire, anzi dovete intervenire, sostenere Ma che cos'è quest'estate e me stessa, e diciamo che a quest'ora cambiando fuso orario rispetto a effetto notte, vi ricordo poi torna il 4 settembre, diciamo c'è bisogno anche della vostra partecipazione. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire, numero gratuito e anche ecologico per evitare di disperdere nell'ambiente i vostri pensieri e concentrarli invece qui in questa puntata di oggi. Poi c'è anche il numero per messaggi e WhatsApp, che è 349 238 6666, 349 238 6666, oppure il numero verde 800 24 00 24. Tanti temi, aggiorniamo chi sta viaggiando e poi cominciamo a trattarli. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Ma cos'è quest'estate? What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? Earth Song, la canzone della terra di Michael Jackson. A che punto sta la terra? Come sta dal punto di vista della salute? Allora, per molti, per gran parte della comunità scientifica, Il cambiamento climatico rappresenta una delle maggiori sfide che l'umanità si trova e si dovrà trovare ad affrontare nei prossimi anni, anche se ci sembra sempre qualcosa di lontano, qualcosa che in fondo non ci appartiene. Diciamo che un po' tutti, anche chi è più sensibile a questo argomento, pensa, ma in fondo io la dovrei sfangare, nel senso calcoliamo più o meno quanti anni ho, dovrebbero finire i miei anni prima che succeda veramente qualcosa di catastrofico, no? Però sapete che Donald Trump, sin dalla sua campagna elettorale per le presidenziali, aveva negato che ci fosse effettivamente un problema relativo al riscaldamento globale, dicendo che il caldo è bello, in realtà certo piace a molti, piace anche a me il caldo, però bisogna capire se è un caldo naturale oppure se effettivamente le cose stanno man mano peggiorando. Parliamo di questo argomento perché la comunità scientifica americana è in allerta. C'è questo studio federale anticipato dal quotidiano americano New York Times che conferma le conseguenze dei cambiamenti climatici sull'ambiente sono già evidenti, e il New York Times ha avuto questa copia riservata di questo importantissimo rapporto scientifico, che in realtà non è stato ancora pubblicato perché aspetta la ratifica della presidenza americana. Però lancia l'allarme sugli effetti dei cambiamenti climatici e dice questo rapporto: le prove del cambiamento climatico sono abbondanti dall'alto dell'atmosfera alla profondità degli oceani, e si tratta di una relazione appunto che è stata completata, redatta dagli scienziati che appartengono a 13 agenzie federali americane. Il rapporto fa parte del National Climate Assessment richiesto dal Congresso, dal Parlamento americano, ogni 4 anni, ed è quindi, diciamo, un rapporto che contraddice completamente le teorie di Donald Trump e della sua amministrazione, che continuano ad alimentare schiere di negazionisti. Qualcuno già scrive tra i messaggi, vi ricordo che potete intervenire su questo argomento che ci riguarda tutti, 800 24 00 24 il numero verde, oppure il numero per i messaggi WhatsApp, che è 349 238 6666. Per esempio, dice questo ascoltatore: New York Times, comunità scientifica americana, chiedere a Carlo Rubbia un parere, quindi allo scienziato. Continua sempre questa partita ping pong tra chi dice attenzione, dobbiamo assolutamente prendere le misure necessarie per evitare che questi cambiamenti climatici peggiorino sempre di più e portino gravissime conseguenze su tutto il pianeta, e chi dice che sono degli allarmismi inutili. Allora proviamo a parlarne con gli ospiti, che comincio subito a salutare, a partire da Mario Tozzi. Mario, buongiorno. Geologo, divulgatore scientifico, scrittore, autore di decine di pubblicazioni scientifiche, primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e poi conduce, tra l'altro, anche conduttore su Rai 1, Fuori Luogo, lunedì in seconda serata. Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano. Caserini, buongiorno. Buongiorno. Giovanna Parmigiani, membro della Giunta Nazionale di Confagricoltura con delega alle politiche ambientali. Buongiorno Parmigiani. Buongiorno. E c'è poi, sentiremo Edoardo Ferrara di 3B Meteo per capire se effettivamente questa ondata di caldo di questi giorni, diciamo, la situazione contingente è destinata a cambiare oppure no. Mario Tozzi, quindi rispetto a questo rapporto della comunità scientifica americana, c'è la conferma, come se ce ne fosse bisogno, che i cambiamenti climatici dipendono dall'attività umana. È vero, come dicevo prima, Tozzi, che ci si pensa, questa è una cosa che galleggia sempre lì, questo problema lì sospeso, però alla fine si pensa sempre che sia una cosa di là da venire, quindi diciamo. Beh, perché è molto chiaro questo, perché il cambiamento climatico non è come un terremoto, è come se ti levassero dal conto in banca un euro ogni settimana, quasi non te ne accorgi. E poi alla fine che fai i conti, dunque si capisce perché noi abbiamo una certa riluttanza a prendere confidenza con questo tema, oltretutto perché è uno dei problemi che per essere risolto comporterebbe dei cambiamenti, non voglio dire epocali, ma comunque significativi. A noi umani non ci piace cambiare, soprattutto a noi umani della parte ricca del pianeta, che ci siamo sviluppati nel modo che conosciamo e che dunque non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare a nulla del nostro preteso grado di sviluppo o di spreco, in funzione del fatto che forse dovremmo ridistribuire invece i carichi anche con chi ha subito solo le conseguenze del cambiamento senza averne avuto nessun frutto. mi riferisco per esempio ai paesi circumafricani, da cui poi provengono le migrazioni di cui si diceva, che si beccano anche loro il cambiamento climatico e la desertificazione senza aver avuto nemmeno un frutto dello sviluppo. Dunque, queste sono le notazioni di carattere, diciamo, generale. I migranti del clima che cambia sono sempre di più, saranno 250 milioni entro i prossimi 20 anni, dunque sarà bene cominciare a pensarci. E l'altra cosa è che non è che ci vuole il rapporto delle autorità americane, esistono già i pannelli degli scienziati di tutto il mondo che a titolo gratuito partecipano a un organismo dell'ONU che si chiama IPCC, che lavora sul cambiamento climatico, ruotano al 70%, dunque non hanno nessun interesse, diciamo, specifico nello stare in quell'organismo lì, e che ci dicono da tempo ormai che il cambiamento climatico è in atto, sarà sempre più forte e più veloce, stronger and faster, dicono, ma già dal rapporto del 2008, e che a causa di questo cambiamento siamo noi ormai. Cioè, sentire il negazionista Trump, che non è uno scienziato, o sentire i pochissimi che hanno un'idea contraria, è sempre utile, perché naturalmente la scienza non è democratica, no? Certo. Potrebbe aver ragione anche uno solo, ma se io avessi 10 scienziati specifici della malattia di mio figlio attorno al suo capezzale e uno solo mi dicesse di non operarlo e gli altri 9 sì, beh, è molto probabile che io darei retta ai 9. È chiaro, Tozzi. Caserini chiede a questo ascoltatore, ascoltatrice, io dico sempre mettete almeno un nome d'arte, dice: mi piacerebbe sapere come fanno a dire che il riscaldamento globale è di origine antropica, cioè umana. È impossibile provare un nesso in un ambiente con così tante variabili. Come lo troviamo questo nesso, Caserini? Ma il nesso deriva da tanti decenni di studi, di centinaia se non migliaia ormai di scienziati, di decine di gruppi di ricerca diversi. Di fatto una spiegazione che si può dare è questa: non ci sono adesso possibili altre cause. Abbiamo cercato in tutti i modi di dare la colpa ad altri fattori, alla radiazione solare, agli raggi cosmici. Alla fine l'unica soluzione che torna è quella che il cambiamento climatico si è legato a questi gas che emettono le attività umane, ed è una teoria che è stata avanzata alla fine del XIX secolo, cioè nel 1896 Svante Regno si aveva già pubblicato un articolo in cui diceva che se andava avanti a bruciare il carbone l'atmosfera sarebbe diventata più opaca al calore emesso dalla Terra e quindi il clima si sarebbe surriscaldato. Quindi di fatto si sta verificando quello che la scienza aveva previsto nei decenni passati. E sarebbe stato, quindi, se non fosse dovuto alle attività umane il cambiamento climatico, noi dovremmo cercare di capire perché tutti i fisici hanno sbagliato nel trovare quell'effetto dei gas che noi mettiamo nell'atmosfera. Quindi in realtà c'è una scienza del clima che, come appunto ha detto Tozzi, viene riassunta in modo magistrale dall'IPCC nei suoi rapporti, che spiega molto bene. Oggi poi abbiamo i modelli matematici che contengono dentro veramente il condensato della scienza del clima di tanti diversi settori, dell'oceanografia, anche poi il tema dei ghiacci e tutto. E questi modelli, se vengono fatti funzionare con i gas serra che noi abbiamo emesso, riescono a spiegare il perché del riscaldamento. Se invece si toglie l'effetto dei gas serra, non ci sono altre cause note che possono spiegare questo riscaldamento. Poi ecco, potrebbe essere che ne inventiamo una dopodomani, ma ecco, è sempre più improbabile, ormai questo è sostanzialmente ormai impossibile. Di fatto con quello che sappiamo spieghiamo bene quello che sta succedendo, ecco, poi possiamo cercare di negarcelo, di dire che non ne sappiamo abbastanza, però alla fine non sono nient'altro che scuse queste. Anche se un altro ascoltatore dice: si può dimostrare che negli ultimi 200 anni è aumentata la temperatura in parallelo alla industrializzazione? È molto verosimile che questo parallelismo implichi causa e effetto, ma non è una dimostrazione assoluta, è il principio di precauzione che ci consiglia di agire. Comunque, insomma, è sempre meglio agire in via cautelativa. Dal 1880, leggo qualche dato, il 2015, le temperature sono aumentate di 1,6 gradi Fahrenheit, e dal 1980 la situazione è addirittura precipitata, con un drammatico aumento delle temperature che ha portato al clima più caldo negli ultimi 1500 anni. Conferma Caserini su questo? Sì, ormai è chiaro che siamo usciti dalla variabilità naturale dei secoli, anche forse di un paio di millenni passati. Quello che noi riusciamo a vedere è che il riscaldamento che c'è sul pianeta anche segue quello che è congruente con la spiegazione dei gas serra. Faccio un esempio: noi vediamo che la parte più bassa dell'atmosfera, la troposfera, si sta riscaldando, mentre la parte più alta e la stratosfera si stanno raffreddando, e questo è congruente con la spiegazione dell'aumentato effetto serra. Se fosse la radiazione solare, ad esempio, questo la radiazione solare dovrebbe riscaldare tutti gli strati dell'atmosfera. Quindi questo riscaldamento è anomalo e ormai dai dati della paleoclimatologia si comincia con sempre maggiore chiarezza a capire che è equivalente a qualcosa di anomalo di molti secoli passati. Nel terzo rapporto sul clima dell'IPCC del 2001 già era chiaro, con un grafico diventato famoso, quello della mazza da hockey, che stavamo appunto uscendo dalla variabilità naturale. Ecco, adesso dopo 16 anni ci sono decine e decine di pubblicazioni scientifiche autorevolissime che mostrano come questo riscaldamento è anomalo almeno per gli ultimi 1000 anni. C'è già Lorenzo da Roma, l'800240024. Aspetta Lorenzo, ancora qualche minuto, perché volevo sentire Giovanna Parmigiani, appunto membro della Giunta Nazionale di Confagricoltura, perché anche da un'esperienza proprio personale di questi giorni vado a correre al parco e sembra autunno perché c'è un tappeto enorme di foglie secche, e allora mi chiedo anche per l'agricoltura che ripercussioni ci sono per questo caldo, diciamo, anomalo di questi giorni, dell'ultimo mese, due mesi. Sono ripercussioni fortissime, ovviamente, in questo contesto di cui avete parlato finora, di aumento delle temperature negli ultimi anni. Le imprese agricole sono le prime che si sono confrontate con questi cambiamenti climatici e tuttora continuano a confrontarsi, perché non c'è nessun'altra attività che dipenda dal clima così come lo fa l'agricoltura. Tutte le nostre colture e coltivazioni sono influenzate sia dalle temperature quotidiane che dalla mancanza d'acqua, che si sta riscontrando sempre più ogni anno. Quest'anno la siccità è stata uno dei temi così che ci ha accompagnato per tutta l'estate, creando grossissimi problemi alle coltivazioni. Ricordiamo che le superfici irrigue in Italia sono pari al 19% rispetto alla superficie che viene utilizzata per produrre cibo, e rappresentano il 50% della PLV, per cui una carenza d'acqua come quella di quest'anno va a incidere sulla produzione italiana in modo consistente e molto, aumentando i costi e riducendo le quantità di prodotto. Ecco, a proposito appunto, Parmigiani, di produzione, leggevo ieri il dato del miele che si è dimezzato in Italia, la produzione di miele. Gli apicoltori dicono il caldo è come il sisma, è come un sisma, è come un terremoto, perché ne risentono le api, gli alveari si svuotano, addirittura si sciolgono. Si sciolgono un po' perché le api hanno un sistema di termoregolazione dell'ambiente, per cui riescono a compensare la temperatura. Il problema però sono le fioriture. Questo caldo cambia completamente le fioriture, per cui le api, per andare a procurarsi il cibo, devono spostarsi, cercare le piante in fioritura. Negli ultimi anni anche gli apicoltori sono diventati nomadi, spostano gli alveari per cercare appunto di approvvigionare meglio i propri alveari, ed è un problema molto, molto rilevante sicuramente. Lorenzo da Roma, l'800240024. Buongiorno, mi scuso, io sono presidente di un istituto che ha fatto cambiare nome alla benzina. Parlo della mia esperienza. Non ho capito, Lorenzo, tu sei presidente di un istituto? Per la difesa della natura. E abbiamo fatto, io personalmente, cambiare il nome alla benzina, che non si chiama verde abusivamente, perché ci stanno avvelenando. Era per dire un pochino di esperienza, perché sentiamo tutti i grandi fisici. Non perché adesso lo dici Zichichi, ma l'attività del sole è più intensa e questo crea lo scompenso ambientale. Quando parlano di questo caldo, lei che faceva effetto notte se ne accorge che al sole non si può stare più di 2 minuti, e questo calore immenso, questo perché faceva effetto notte, me ne rendo conto. Brava. E allora io non riesco più a stare, non posso stare con i miei nipotini, perché dopo minuti sento già il calore enorme. Io quando sono andato nel 70 sul Tonale, c'erano il ritiro, si stavano ritirando gli acciai eterni, si chiamavano, dove c'erano le trincee del 15-18. Se hanno fatto le trincee del 15-18 non c'erano gli acciai. La Groenlandia si chiama growing, green, dipende, perché i vichinghi ci coltivavano la vite. L'uomo è micidiale, lo sta avvelenando, inquinando, distruggendo questo pianeta. Ma sull'effetto climatico non c'entra niente, perché anzi il CO2 fa crescere le piante, che crescono assorbendo Cioè, scusami Lorenzo, se riesco a seguire il tuo discorso. Allora tu dici che l'attività umana, l'attività umana è terribile sull'ambiente, però non c'entra con i cambiamenti climatici? Ma certo, abbiamo un continente di plastica sul Pacifico che sta distruggendo, i pesci mangiano solo plastica. No, ho capito, ma intendi dire che però tutto questo non incide sui cambiamenti climatici? Non può incidere, perché basta che un vulcano erutta qualche cosa e già fa per 100.000 macchine. Ma scusi, se... Calandra, ma se c'era la Groenlandia, si chiama così perché era verde a quei tempi. Lorenzo. Il Sahara è stato, ci sono le prove che nel Sahara ci sono le grotte del Castiglio, ci sono i disegni. Lorenzo, scusa, vorrei fare intervenire, ti ringrazio. Tozzi? Pronto? Tozzi? Sì, ma abbiate pazienza, Mario, però io questa cosa... Non è che possiamo ancora sentire queste sciocchezze senza fine, perché non è che chiunque salta e parla di cose che non conosce, non è che è come la nazionale di calcio, la formazione per cui ognuno salta e dice la sua. Allora, queste sono sciocchezze senza fine. La Groenlandia si è chiamata Greenland per una ragione propagandistica, perché Erik il Rosso, quando voleva portare i vichinghi lì a coltivare l'orzo, non la vite che non c'è mai arrivata, ha approfittato di una finestra temporale in cui era più verde di oggi. Quelle stesse valli che erano verde al tempo di Erik il Rosso oggi sono ancora più verdi, ma quello era un cambiamento che poteva riguardare qualche piccolo parte del pianeta, non certo un cambiamento globale come quello di oggi. L'attività solare, secondo la NASA, dal 2005 al 2011 è diminuita, non aumentata, dunque il sole c'entra come i raggi cosmici, come si diceva prima, intorno al 5%. Zichichi, è meglio che non parli su questi temi, lui è un fisico delle particelle, di clima ne sa quanto ne posso sapere io, di ginecologia. È bene che lascino perdere queste cose, lasciamo perdere, perché se no cominciamo sempre con le stesse storie, per cui si alza uno e ti dice no, guardate, non è così, è così. Decenni di studi, tutti i grafici ricordati prima, tutte le cose che sono state, non buttano più niente, perché l'uomo fa dei danni, ma non quelli del cambiamento climatico. Il vulcano, peraltro, quando cambia il clima, e lo fa al freddo, perché sparge le polveri sull'atmosfera, non c'entra niente con le 300.000 macchine. Qui si parla a caso, vi prego, facciamola finita. Capisco che c'è un'esigenza giornalistica di sentire anche l'altra campana, ma qui l'altra campana non è autorizzata scientificamente. Però volevo chiedere a Caserini prima della pausa. Caserini, questa cosa del sole che è più caldo, allora io sono un po' anomala, quindi diciamo corro per esempio a luna di giorno alle 13 quando d'estate ad agosto senza nessun problema, però è vero che un pochino il sole è più forte, al di là di tutto quello del discorso che ha fatto Mario Tozzi e anche lei, questo è riscontrabile? Ci sono molti punti in cui sul pianeta si fanno le misure della radiazione solare, della potenza della radiazione solare. Tutti questi dati sono concordi nel dirci che negli ultimi 20 anni non c'è stato un aumento della potenza della radiazione solare. Quindi il Sole non può essere in nessun modo responsabile di questo riscaldamento, perché è monitorato in modo molto preciso, insomma sono tanti punti nel mondo, tanti centri di ricerca, e ormai concordano nel dire che non può essere la radiazione solare, tanto che i cosiddetti negazionisti avevano cercato negli ultimi, diciamo, 15 anni delle cause indirette, ossia che il Sole era legato alla differenza nella radiazione cosmica e questo influiva sulla diversa quantità di nubi che quindi favorivano il riscaldamento. Anche questa teoria è stata smontata, in particolare dall'ultimo studio Cloud fatto al CERN di Ginevra. Quindi il Sole in nessun modo può essere oggi considerato responsabile del riscaldamento globale avvenuto negli ultimi 50 anni. Su questo, quindi, non sta aumentando, ecco, la forza della radiazione solare. Federico chiede: questo aumento di temperatura ci porterà prima alla prossima era glaciale? La risposta dopo. Voi continuate a chiamare al numero verde 800 24 00 24 oppure al 349 238 6666. Intanto ci prendiamo una piccola pausa. Ma cos'è quest'estate? Find the words that matter, say them out loud, I make it better somehow. Looking down from up on the moon, it's a tiny blue marble. Who'd have thought the ground would stand on? Could be so fragile. Roberto Giordano sempre con voi e stiamo parlando di cambiamenti climatici con questo studio, l'ennesimo insomma, di 13 agenzie federali americane. L'allarme degli scienziati, la comunità scientifica americana, che dice e conferma per l'ennesima volta il riscaldamento globale, i cambiamenti climatici sono dovuti all'attività umana. E c'è anche il timore da parte di questi scienziati che Trump, che la pensa, come sappiamo, molto diversamente su questa questione, cerchi di insabbiare o quantomeno di bloccare la pubblicazione di questo rapporto, che in realtà per il momento è un'anticipazione del New York Times. Mario Tozzi chiedeva all'ascoltatore Federico: questi cambiamenti climatici porteranno prima alla prossima era glaciale? Ma noi siamo comunque in un interglaciale, ammesso che le glaciazioni abbiano preso questo ritmo astronomico che hanno preso le ultime 5 volte in 2 milioni di anni, quindi andavamo già naturalmente verso un riscaldamento rispetto a 10.000 anni fa, grosso modo, quindi la vicinanza o meno di una prossima glaciazione, di una prossima glaciazione, non vedo perché dovrebbe essere guidata da un aumento delle temperature, anzi, non sappiamo, diciamo, sappiamo che quelle glaciazioni ultime dell'era quaternaria sono legate a questioni di cicli astronomici che sono ben riconosciuti, quelli sono sempre da tenere in considerazione. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, di un'accelerazione straordinaria del surriscaldamento di oceani e atmosfera, ormai connessa alle attività produttive dell'uomo, che come è noto avvolgono la Terra in una specie di sudario fatto di gas climalteranti che non permettono al calore solare di sfuggire. In queste cause, sulle quali sarà bene forse ancora interrogarsi, c'entrano parecchie cose, dal traffico veicolare agli impianti industriali alla bistecca. Io vorrei che questo fosse ricordato, perché l'allevamento, la zootecnia e l'agricoltura di cui si parlava prima sono tra i maggiori responsabili della componente forzante sull'effetto serra naturale che gli uomini hanno imposto. Lì si tratta soprattutto, lo volevo dire prima a proposito dell'intervento, anche di uso più responsabile dell'acqua e delle risorse. Se in agricoltura si irriga per circa il 40% ancora come al tempo dei Romani, cioè non si temporizza e non si vaporizza, se si sostituisce il cereale col mais o col kiwi, poi dopo l'acqua la consumi, bisogna che ce lo ricordiamo. Volevo dire a Caserini, lo citava prima Mario Tozzi, fra le possibili misure, fra le possibili cause anche di questi cambiamenti climatici, l'allevamento intensivo di animali, di mucche in particolare, no? Si parla di gas serra, intanto per il consumo del suolo, dell'acqua, anche per le flautolenze delle mucche. C'è una proposta per quanto riguarda, vedevo The Atlantic, un giornale americano, che proponeva un cambio di alimentazione agli americani, ci sarebbe un risparmio enorme di gas serra, di suolo, di acqua, proponendo i fagioli al posto del manzo, che potrebbe essere, diciamo, evocare cose un po' suggestive, no? Questo cambio per evitare i gas serra, e lei lo approverebbe come misura? Le emissioni di metano dai ruminanti, quindi in particolare dai bovini, sono una delle cause del riscaldamento globale, perché il metano è un potente gas serra, anche se ha un tempo di vita nell'atmosfera più breve di quello della CO2, quindi riscalda più sul breve periodo. Quindi è vero che un passaggio da una alimentazione molto basata sulla carne, appunto, di manzo, rispetto anche dal passaggio alla carne di maiale, alla carne di pollo, è una cosa positiva. Quindi il ridurre il consumo di carne, a volte l'abuso di carne, è una cosa che fa bene, sicuramente riduce le emissioni di gas serra. In questo senso molti studi hanno quantificato positivamente l'effetto per il pianeta nella riduzione del consumo della carne. Ecco, forse si potrebbe iniziare da evitare l'abuso nel consumo della carne. Nei paesi occidentali se ne utilizza, forse se ne mangia molta di più di quella che anche i medici stessi dicono che E poi ne parliamo proprio con una nutrizionista tra poco su questo. Volevo sentire ancora un ascoltatore all'800240024 che è Emiliano da Bari. Emiliano, sì, eccoci qui. Buongiorno. Buongiorno, salve. Innanzitutto tutti i miei complimenti a Tozzi, che finalmente dice un po' di cose, mi ha tolto un po' di temi che avrei voluto affrontare io, quindi. Beh, li dice da tempo Tozzi. Ha anticipato un po' i tempi e soprattutto ha ribadito l'importanza di stare zitti quando uno non è cosciente della materia di cui sta parlando, perché ieri ad esempio sulla scuola lei chiedeva sempre a fine intervento di chi chiamava da casa che lavoro facesse, proprio perché poi deve capire anche la preparazione di chi parla. No, non sempre lo chiedo, se in qualche modo percepisco che c'è una certa particolare competenza, per esempio, chiedo, ma lei effettivamente... Esatto, sì, però anche particolare incompetenza, perché io, ognuno diceva la sua sulla scuola, io ho rinunciato a un dottorato proprio in paleoecologia in Canada, sui cambiamenti climatici, perché io ho finito gli studi, vuoi per l'università, vuoi per la scuola che c'ha un anno in più rispetto alla metà dei miei colleghi, avevo iniziato il dottorato a 30 anni, ero già fuori completamente, diciamo, competizione a livello di età e ho rinunciato, ho fatto una scelta molto pragmatica. Vabbè, comunque, lasciando questo Emiliano, tema, tu che cosa fai tutti i giorni, per esempio, per nel tuo piccolo, diciamo? Allora, per... io sono un dottore forestale, però sono un commerciale di avannotti, ovvero vendo pesci a chi li alleva a mare. Ma come prevenzione per evitare i cambiamenti climatici, come si dice che ognuno no, di noi... No, prevenzione ormai, io sono di quei scienziati, si dividono in pessimisti, possibilisti e non mi ricordo mai gli altri. Forse attendisti? Io sono pessimista perché per me abbiamo già superato abbondantemente la soglia del non ritorno e siamo diventati troppi al mondo. E quindi sono non abbastanza... fai niente? E quindi non fai no, nulla? No, no, voglia, riciclo al massimo, tento sempre di evitare, ho passato molto il consumo di carne, di come si diceva prima, poc'anzi. Ah, è una preghiera, non chiamate americani di Stati Uniti, perché si offenderebbe mio zio che è argentino. Cioè, quelli sono nordamericani, cioè l'America di Trump, Stati Uniti Trump. Queste finezze, Emiliano. Ti ringrazio della precisazione. C'è Luca che mi pare sia un apicoltore, Luca? Sì, pronto, buongiorno. Sono un apicoltore di 36 anni della provincia di Cuneo. Chiaro, sì. Prima la vostra ospite ha parlato appunto dell'influenza di questi cambiamenti climatici sull'apicoltura. Giovanna Parmigiani, sì. Esatto, una testimonianza diretta è questa. Abbiamo proprio verificato noi apicoltori come negli ultimi anni sia diventato impossibile fare determinate fioriture, come ad esempio la acacia, no? Che è il principale raccolto dell'anno a livello economico. Da un po' di anni è diventato praticamente impossibile da fare perché ci sono gelate troppo tardive e quindi si arriva a maggio che non si riesce più a fare la acacia. E questa è una cosa che fino a una decina d'anni fa era normale. Adesso molti apicoltori di fatto rinunciano a questa tipologia di miele monofloreale. Mm. Grazie Solo Luca di questa testimonianza proprio del tuo mestiere così pertinente. E giro quindi a Giovanna Parmigiani di Confagricoltura. Voi che misure prendete per sia di prevenzione che anche per compensare questa situazione nell'agricoltura nel suo complesso, al di là proprio anche del miele? Sì, infatti ci tenevo anche a rispondere al dottor Totti, che prima ha detto che l'agricoltura è la prima consumatrice di acqua, però ricordiamoci che l'agricoltura non consuma l'acqua perché dopo il suo utilizzo la restituisce alle falde freatiche, per cui non è consumo. Ma inoltre tantissimo è stato fatto dagli agricoltori negli ultimi anni, tant'è vero che è stato sviluppato moltissimo la microirrigazione, a differenza dei sistemi di irrigazione più utilizzati prima, cioè a scorrimento. La microirrigazione ha un consumo dell'acqua nettamente inferiore rispetto ai sistemi più tradizionali. Certo è che vanno attivati anche molto rapidamente degli investimenti per adeguare tutte le infrastrutture e i sistemi di approvvigionamento idrico, che in Italia, ricordiamo, perdono il 27% dell'acqua che viene immessa nelle reti idriche, ne viene perso il 27%, quindi forse efficientare la rete di approvvigionamento sarebbe molto importante. Altra precisazione che volevo fare è per quanto riguarda i gas climateranti e i gas serra. È vero che la zootecnia e l'agricoltura hanno un'importanza su queste, però è anche vero che se gli obiettivi di riduzione di gas serra che la Bruxelles, la Comunità Europea, aveva dato all'Italia per il 2020 sono già stati di miglioramento, quindi dell'aria, sono già stati raggiunti in Italia, quindi con 4 anni d'anticipo, principalmente grazie al settore agricolo e zootecnico. Infatti negli ultimi 10 anni in agricoltura abbiamo calato del 30% dell'utilizzo dei fertilizzanti, che sono uno dei componenti che vanno a influire sui gas serra, e questo senza andare a ridurre le produzioni, quindi con un efficientamento, un miglioramento del nostro lavoro. E anche negli allevamenti, io sono allevatore di suini per cui conosco molto bene il problema, anche negli allevamenti si sta lavorando moltissimo per la riduzione dell'ammoniaca e dei gas emessi dagli animali, appunto, sia nei sistemi di areazione degli allevamenti, sia quindi con l'alimentazione. Quindi un sacco di misure di prevenzione. Mi scusi, c'è Edoardo Ferrara, il nostro meteorologo di Trebi Meteo, il quale ci dirà, fra l'altro, diciamo, restando sulla situazione contingente, buongiorno Edoardo. Buongiorno a voi. Che clima avremo nei prossimi giorni? Perché ho letto notizie contrastanti. Bollino rosso oggi in 17 città e anche nei prossimi giorni qualcuno dice controordine, torna il caldo, invece il caldo per alcuni dovrebbe diminuire. Qual è allora, la verità? Sì, diciamo che mentre il nord, o meglio parte del nord, ha già visto un calo termico sotto l'effetto dei temporali, il centro-sud e l'Emilia-Romagna dovranno ancora stringere i denti per 48 ore, quindi avremo ancora caldo africano al centro-sud con punte di 38-40 gradi, ma c'è da dire che tra venerdì e sabato rinfresca su tutta l'Italia, in particolare venerdì avremo un calo termico apprezzabile sulle regioni del centro e tra venerdì e sabato anche fino alle estreme regioni meridionali. Quindi sì, abbiamo ancora il bollino rosso, caldo molto intenso, però per 48 ore, perché poi appunto vedrete che il weekend sarà decisamente più gradevole, più respirabile, anche se comunque farà caldo, perché passare dai 40 gradi passeremo ai 30, quindi sarà ancora caldo estivo, ma assolutamente più normale rispetto ai valori eccezionali dei giorni scorsi. Ecco, ti chiedevo se si può andare oltre con le previsioni? Sì, in effetti poi la prossima settimana tornerà l'anticiclone, quindi avremo di nuovo un aumento del caldo un po' su tutta l'Italia, quindi temperature che torneranno sopra la media, quindi diciamo clima più fresco per 2-3 giorni, ma la prossima settimana sarà ancora caldo, anche se non dovrebbe essere un'ondata di caldo intensa come quella della scorsa settimana. Quindi diciamo dovremo stare entro i 34-35 gradi, che comunque sono valori elevati, e comunque il rialzo termico sarà graduale, quindi vedrete che la prima parte della settimana avremo ancora un caldo tutto sommato accettabile, poi ancora intenso, però non ad oggi non si vedono i picchi eccezionali della scorsa settimana. Un certo miglioramento. Grazie Edoardo Ferrari, Trebi Meteo. Grazie a voi. Grazie Edoardo. 800 24 00 24. C'è un ascoltatore che dice, ma una domanda semplice, da quanto si rileva la temperatura, da quando è aumentata? L'abbiamo detto tante volte, dal 1880. Poi Mario Tozzi chiede un ascoltatore, ma del buco dell'ozono non si parla più? Questo è Stefano da Monza. Allora, quella è la lacerazione, più corretto sarebbe dire, dello strato di ozono, quell'ozono atmosferico che ci protegge in qualche misura dalle radiazioni più violente. Quello si è cominciato a stracciare, a rompere, l'hanno cominciato a verificare negli anni 60, soprattutto nelle zone polari. Adesso sembra in un momento di stasi o, qualcuno dice addirittura, di ricucitura. Ma quello aveva una causa precisa, erano i componenti colorati e fluorati dei gas refrigeranti, soprattutto, o delle nebulizzazioni degli spray, per esempio delle lacche, eccetera. Che adesso sono molto ridotti, no? Che sono stati banditi veramente, più che ridotti, e con una convenzione attraverso la quale si è visto che appunto il meccanismo, peraltro è stato studiato da 3 scienziati chimici che hanno preso il Nobel per la chimica per questa ragione, proprio hanno studiato il meccanismo di impoverimento dello strato di ozono, Rowlands e Molina soprattutto. Ecco, questa inversione di tendenza dovuta al fatto che si è cambiato, e questo dimostra che si può fare, dunque è stata molto chiara, e probabilmente lo diciamo perché è ancora presto per dirlo, ha avuto un'influenza sul fatto che perlomeno non si siano allargati queste lacerazioni nello strato di ozono. Mario Tozzi, ma un altro ascoltatore chiede, ma la sovrappopolazione che quanto incide su la sovrappopolazione? Consumo di risorse, ulteriore inquinamento, no? Diciamo, è abbastanza automatico. Questo è il problema dei problemi. I sapiens sono più di 7 miliardi, la Terra è sempre quella, le esigenze dei sapiens sono in qualche modo giustamente sempre maggiori, non è che veniamo tanto fuori da questo discorso qui, sembra quasi una necessità svilupparsi in quel modo lì. Adesso voglio dire a chi non si è ancora sviluppato, a noi che per 200 anni abbiamo inquinato come ci pareva e oggi vorremmo che tutti fossero virtuosi. Loro giustamente vorrebbero una ripartizione delle ricadute. Ecco, è un po' questo che manca a noi occidentali ricchi e avanzati, cioè dire noi abbiamo fatto il fattibile, ma non sarà mai possibile portare tutti i paesi del mondo allo stesso livello di sviluppo, non so, degli Stati Uniti, ma nemmeno degli italiani, semplicemente perché non ce n'è abbastanza. Il mondo fisico è misurabile ed è finito, non ce l'abbiamo più, non so come dire. Qui è un'illusione quella di pensare, vabbè, saremo tutti quanti bene come gli americani o ricchi come loro. Questa è un'impossibilità fisica. Caserini, invece il fatto che gli Stati Uniti si siano sottratti all'accordo di Parigi sul clima, no? Intanto questo accordo di Parigi è consistente, nel senso che effettivamente pone delle basi concrete per cominciare a ridurre questi cambiamenti climatici, oppure no? E poi che incidenza ha il fatto che un paese come gli Stati Uniti non lo segue? È un accordo globale, di un negoziato molto intenso che c'è stato, quindi concreto non è concreto, non lo è nessun accordo politico, però di fatto segna un percorso molto chiaro e preciso su quali deve essere i passi, quali dovranno essere in futuro i passi per ridurre le emissioni. Il fatto che tutti i paesi devono dire volontariamente cosa fanno, si fa la somma di tutti questi contributi volontari, se non sono sufficienti tutti devono poi rialzare ogni 5 anni. Quindi gli attori più importanti sono oggi la Cina e l'India, forse ancora più degli Stati Uniti. Super sovrappopolati, no? Sono i paesi più popolosi, Cina e India, se la contendono. Sono loro che adesso hanno ancora emissioni più basse delle nostre. L'India emette, per dire, 3 tonnellate di CO2 pro capite, noi ne mettiamo 9, gli Stati Uniti sono sopra i 16, quindi è chiaro, loro sono 1 miliardo di persone, se loro aumentano le loro emissioni si sente. Quindi sicuramente c'è il problema di fare in modo che questi paesi rinuncino a fare un secolo o più, come abbiamo fatto noi, ad alte emissioni, e questo l'accordo di Parigi cerca di trovare un modo per evitarlo, quindi ad esempio fare la possibilità di aiutare questi paesi con un trasferimento tecnologico, non facendogli pagare i dazi ad esempio sulle tecnologie magari che sviluppa. Però è chiaro che la direzione in cui bisogna andare è quella, e anche in modo sempre più intensivo. Ci dobbiamo salutare, ringrazio quindi Mario Tozzi, Stefano Caserini, Giovanna Parmigiani. Grazie, grazie, buona giornata e buona estate. Sparisci, devo mangiare. Sono fagioli con le cipolle. Ce li giochiamo a pari e dispari. Se viene pari, me li mangio io. Se viene dispari, te li mangi tu. Dai, scommettiamo. Se perdi, ti fa anche bene alla linea. Non mi piace giocare a pari e dispari. E non mi piace neanche chi vuole mangiare i miei fagioli con le cipolle. Sono stato chiaro. I fagioli fanno bene, vi dicevo di questa ricerca, un studio scientifico congiunto dalla Oregon State University, Bard College e Loma Linda University, che hanno cercato di capire quale diverso impatto sull'ambiente avrebbe nella riduzione dei gas a serra sostituire nell'alimentazione umana il manzo con i fagioli. Saluto su questo Francesca Scazzina, che è docente di nutrizione e salute all'Università di Parma. Buongiorno, buongiorno Scazzina. Tutti. Che buongiorno. Dice, potrebbe essere un buon cambio per ridurre i gas a serra? Anche se sarebbe facile una battuta su questo. Sì, effettivamente potrebbe essere un buon cambio, se non completamente stravolgere la dieta delle persone, che potrebbe essere scioccante, quantomeno attenersi a quelle che sono le raccomandazioni, quindi limitare abbondantemente il consumo di carni rosse, magari preferendo quelle bianche, proprio perché gli allevamenti di bovini effettivamente hanno un impatto enorme, non solo nell'emissione di gas, come si diceva prima, ma ad esempio anche nel consumo di acqua, quindi le riserve idriche. Se pensiamo che per produrre un chilo di carne sono necessari più di 15.000 litri di acqua, rispetto, non so, a un chilo di mele, per dire, che sono circa 70 litri, insomma. Quindi l'impatto è effettivamente enorme da tutti i punti di vista. In più dal punto di vista anche della salute, quindi dell'ambiente, ma anche della salute umana, ridurre. Esattamente, ormai è risaputo, penso che non ci siano più problemi, cioè nell'affermare che le ricerche mostrano che il consumo di carne rossa di fatto porta a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari e alcune forme di tumore, quindi diventa proprio anche un'esigenza per la salute. Quindi non eliminarla, ma ridurla, no, per questi argomenti che stiamo assolutamente trattando. Assolutamente, basterebbe quello. Scazzina, voi avete fatto proprio anche una ricerca, no? Se non sbaglio, col vostro dipartimento. Sì, allora abbiamo confrontato in 3 gruppi italiani, quindi persone con una dieta italiana come la può essere la nostra, l'impatto ambientale e anche quello che poteva essere poi gli aspetti nutrizionali di 3 diete, una onnivora, una vegetariana e una vegana. E quello che abbiamo visto è che effettivamente la dieta vegetariana ha un minore impatto, quindi è più sostenibile da tutti i punti di vista, quindi emissione di gas, consumo di riserve di acqua e riserve anche di terreni, diciamo, utilizzati per e su la, questo, dottoressa Scazzina, professoressa, ci dobbiamo lasciare, poi ognuno sceglie naturalmente se essere carnivoro, vegetariano o essere onnivoro, che forse è la cosa migliore, però abbiamo capito che da un punto di vista ambientale sicuramente ci sono dei vantaggi. Grazie professoressa Francesca Scazzina, noi ci risentiamo dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Ma cos'è quest'estate? Continuiamo a chiedercelo, continuiamo a parlarne degli argomenti in primo piano. Roberta Giordano sempre con voi, abbiamo parlato lungamente dei cambiamenti climatici, di questo rapporto ancora non pubblicato dalla comunità scientifica americana, da 13 agenzie federali che confermano che i cambiamenti climatici sono dovuti all'attività dell'uomo e che vanno avanti man mano, sempre più incalzando, e temono gli scienziati americani, e questa è un'anticipazione del New York Times, che Trump, che dovrebbe dare poi il via libera alla pubblicazione di questo rapporto, possa o insabbiarlo o in qualche modo cercare di censurarlo, di bloccarlo. Abbiamo parlato lungamente con Mario Tozzi, sappiamo, grande divulgatore, con Caserini, con la rappresentante di Confagricoltura. Abbiamo anche detto quali sono le previsioni relativamente al caldo nei prossimi giorni. Ho visto moltissimi vostri messaggi comunque su questo argomento, tante domande alle quali adesso non si può rispondere perché il tempo è quello che è, e comunque alcuni ascoltatori sono riusciti ad avere diciamo almeno delle risposte ai loro dubbi e alle loro domande. Ringrazio, fra l'altro, mi sono dimenticata in questi giorni di ringraziare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che dicono bentornata, anche Andrea Martinez, Rosanna, l'ascoltatore da San Paolo del Brasile. Quindi sapete, ascoltato Ma cos'è quest'estate a livello internazionale, naturalmente, così come anche a Radio 24. Tra poco cambiamo argomento, però volevo ancora le vostre telefonate su questo tema, e poi continuate anche sugli altri temi, al numero verde che è sempre quello 800 24 00 24, e poi il numero per i messaggi WhatsApp che è 349 238 6666. Molti dicono, a proposito delle argomentazioni che si sono fatte in questa prima ora sui cambiamenti climatici, vergognatevi, fate del terrorismo, molti altri invece cercano appunto di capire effettivamente se è più una cosa o un'altra causa. Qualcuno parla del metano, qualcuno anche parla delle misure che ha preso nel suo quotidiano per cercare di dare il suo piccolo contributo, insomma, per prevenire il riscaldamento globale. Dice questo ascoltatore, Max da Udine: ho scelto un'auto a metano anche e soprattutto per l'ecologia. Vorrei chiedere all'eccelso Tozzi se ci sono sull'impatto globale delle emissioni, che dati ci sono sulle emissioni delle auto. Abbiamo sentito che comunque hanno una grossa incidenza. Però adesso parola a Roberto da Rovigo. Buongiorno Roberto. Buongiorno signora. Io sto ascoltando il vostro programma ed è un argomento da ex ambientalista, quale io sono. Ex, hai detto ex ambientalista? Ex. Hai cambiato idea. Ho cambiato totalmente idea perché ho ritenuto certe affermazioni non giuste. E mi riferisco ancora dei primi protocolli di Kyoto, che voi probabilmente ricorderete, dove uno scienziato, mi sembra dell'Università di Harvard, contestava all'epoca tutte quelle che erano le scelte, per esempio, o meglio, quelle erano le direttive. Per esempio il discorso del consumo dell'acqua. L'acqua è quella che usiamo del tempo dei dinosauri, non si può parlare di consumo, si può parlare solo di uso dell'acqua. Quindi certe affermazioni, quando si parla consumiamo l'acqua, il termine cogliono migliaia di litri per allevare un bue, è un termine che crea pathos nella gente, ma non dice la verità. Quell'acqua lì la beveva anche il dinosauro, è un circolo chiuso, questo è un fatto tecnico. Mi meraviglio che un personaggio come Tozzi che faccia discorsi del genere, ma non è mica solo lui, signora. Mi ricordo perfettamente Al Gore, che ha perso per una manciata di voti, mi sembra con Bush, ha preso il premio Nobel perché ha fatto un documentario catastrofistico. Sono cose che non sono vere. No, Roberto, adesso che ha preso il Nobel. Roberto, scusami, però effettivamente adesso giustamente do la parola alle ascoltatrici e agli ascoltatori perché vorrei che intervenissero sui vari temi, dicessero le loro opinioni. diciamo che effettivamente, Roberto, si sente che non c'è una grande competenza, ma non perché tu debba essere per forza uno scienziato, un ricercatore, però dire che tanto l'acqua o le risorse che il pianeta Terra ha sono infinite, come l'acqua che è la stessa che bevono i dinosauri, allora tutta questa desertificazione o il fatto che noi stessi abbiamo problemi di siccità, cioè, mi sembrano delle questioni piuttosto incoerenti. Valerio da Roma. Valerio. Buongiorno. Buongiorno Valerio. Dunque, io volevo spezzare una lancia in favore del mio ex collega di studi Mario Tozzi. Mm. Perché, badate, vorrei sottolineare... Nel senso, si possono come... avere anche delle opinioni contrarie, però bisogna avere un minimo di... No. No, voglio dire, vorrei spezzare una lancia perché tra l'altro ci siamo occupati tutti e due tutta la vita di scienze della Terra. Ora, il punto è che non vorrei che gli scettici pensassero che le posizioni che esprime in maniera, secondo me, molto razionale e molto equilibrata Mario Tozzi, in questo caso, venissero prese alla stregua di, diciamo, ecologisti della prima ora col pulmino Volkswagen dipinto a fiorelloni, che sognano la decrescita felice o cose di non è un hippie, non è un hippie, vuoi dire? Nella maniera più, nella maniera più assoluta. È vero che noi non siamo in grado di quantificare con grande precisione in questo momento quella che può essere l'incidenza del comportamento umano nei cambiamenti climatici che sono in atto, e questo è un fatto. Ma il fatto di non poterne definire esattamente la percentuale, diciamo, della nostra responsabilità, alla fine che cambia? Noi ci troviamo esattamente come la gazzella e il leone della barzelletta sull'Africa. Ce la ripeti giorno, molto sinteticamente. Ogni giorno una gazzella si sveglia la mattina e sa che dovrà correre più del leone o morirà sbranata. Ogni giorno un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ma se anche noi non sappiamo se siamo gazzella o leone, in ogni caso bisogna correre. Quelli che sono i comportamenti più virtuosi che si comincia a cercare di iniziare a pianificare. Grazie. Sono necessari comunque. Valerio, ti ringrazio e adesso direi di passare a un altro tema, poi c'è sempre il numero per voi 800 24 0024, anche sul prossimo tema. E lo introduco con questa canzone famosa di Bruce Springsteen quando in occasione dell'11 settembre, che era appunto un inno al riscatto, a rialzarsi. In questo caso parliamo di Amatrice, dei luoghi del terremoto dello scorso 24 agosto, ormai è passato un anno, no? Che portarono distruzione, tanti morti. Ne parliamo con un personaggio simbolo, un uomo simbolo di quel terremoto, il sindaco di Amatrice, che è Sergio Pirozzi. Buongiorno Pirozzi. Salve, buongiorno. Lei ha visto, fra le varie cose, si sta parlando molto in questi giorni appunto perché ricorre questo triste anniversario, ieri il quotidiano La Stampa aveva un reportage dove i suoi cittadini, i cittadini di Amatrice, che si trovano in grosse difficoltà perché qualcuno ancora nei camper, nelle roulotte, alcuni hanno avuto le casette che però mi sembra siano arrivate in totale, dico, tra Cumuli, Amatrice e gli altri paesi, in numero molto esiguo rispetto alle richieste, e ci sono ancora molti disagi. Com'è la situazione, Pirozzi? Ma io vi do un po' di informazioni esatte. Noi abbiamo consegnate 195, e mi sembra un numero. Pirozzi, la sentiamo male, però se riesce... Mi sì, scusi, ne abbiamo consegnate sì. 195. Ad Amatrice. In questi giorni altre 78, per cui andiamo quasi intorno alle 300. Per quello che riguarda la questione riportata ai giornali, faccio alcune considerazioni. Allora, uno che ieri poi c'è stato il sopralluogo da parte della responsabile della Regione Lazio, col CNS e con un consigliere, diciamo, comunale, le cose che sono uscite sui giornali non corrispondono esattamente a verità. Perché parlavano i suoi cittadini di grossi disagi, poi, che si possono immaginare, i topi, le fogne. Che pure lì il salto di qualità di questa comunità, e siccome il sindaco è stato sempre presente sul territorio dal 24 agosto, e c'è qualche problema, anche se noi non siamo né chi fa le opere d'urbanizzazione né chi monta le case, perché andiamo, insomma, a distinguere anche le competenze. Se io l'avessi saputo avrei fatto intervenire immediatamente chi ha fatto le casette. Diciamo, il lavoro, per cui ritengo sempre non un buon servizio all'Italia Cioè, lei dice i suoi cittadini dovevano passare prima da lei con le richieste, direttamente ai media. Poi dopo abbiamo chiuso quello che dicevo da un mese. Io dicevo da un mese che era necessario l'istituzione di un numero verde, così il cittadino che ha qualche problema si rivolge direttamente a chi ha realizzato l'opera. Oggi verranno qui i rappresentanti del CNS dopo lunga e penosa malattia, perché io lo dicevo da un mese che era necessario mettere un numero verde a disposizione dei cittadini, perché se no la procedura che mi volevano imporre era che il cittadino faceva la segnalazione al comune, il comune poi doveva verificare, poi doveva scrivere, e capite che questo era un modo poi per non risolvere mai. E poi alla fine si muore di burocrazia anche tra le altre cose. Per cui l'abbiamo risolto. Pirozzi, se dovesse dire però proprio in sintesi, quindi la situazione adesso in particolare ad Amatrice, che appunto è assurda, proprio a simbolo di quel terremoto dello scorso anno, adesso come stanno le cose in poche parole, in sintesi? Da una parte noi andremo a consegnare circa il 60% delle abitazioni entro, come le stavo dicendo, una settimana. Io grosso è stato garantito da parte della Regione Lazio che per metà settembre saranno tutti dentro. Noi qui abbiamo sposato un modello abbastanza difficile, anche se ci sta dando delle grandi soddisfazioni al di là dei problemi che ogni tanto possono uscire fuori, che non dovranno più capitare, questo sia chiaro. Noi abbiamo sposato il modello di dare l'opportunità ad ogni frazione, noi qui ne abbiamo ben 69, di avere la propria area di prossimità. Qui noi abbiamo 40 aree. 40 aree? Aree, un lavoro straordinario per fare in modo che le persone che stanno nelle frazioni abbiano una possibilità di rimanerci. Questo è stato un lavoro lungo, però ti dico la verità, di fronte ai numeri dell'intero cratere, il fatto che ad Amatrice ci sono più del 50% delle case consegnate è un motivo di grande soddisfazione, perché c'è stato un grande lavoro. Poi da una parte c'è un mondo che è ripartito, perché qui noi abbiamo avuto la discussione, hanno riaperto i primi ristoranti, il supermercato, domani apriranno alcuni esercizi commerciali, è stata appaltata la nuova scuola, qui è partito il liceo scientifico sportivo internazionale con 32 iscritti, di cui 21 da fuori regione. Insomma, capite che c'è stata anche una proiezione del futuro. Dall'altra parte, lentamente, e adesso avrò un incontro tra un po' con il genio, si stanno levando le macerie, è stato fatto l'appalto dalla regione con un po' di ritardo. Questo primo appalto è di un importo di 10 milioni di euro che sicuramente non basta. Un mese e mezzo fa ho fatto l'incontro col Premier Gentiloni, chiesi anche la possibilità, visto questo stallo amministrativo che c'era, di poter avere qui sul posto l'esercito. Questo mi è stato garantito, oggi verrà il rappresentante del nostro esercito, insieme alla regione si cercherà di intervenire anche in quella parte di smaltimento delle macerie e rimozione delle macerie che non è stato incluso nella prima tranche di gara di 10 milioni di euro. Insomma, cerchiamo di trovare ogni giorno le soluzioni. Allora, intanto, Pirozzi, mi scusi, vedo che il suo bilancio tutto sommato è abbastanza positivo nonostante le difficoltà, e vorrei sentire... Qui abbiamo avuto la discussione. Quindi devo dire le arrabbiature che mi sono preso in questi 12 mesi, farei un papier, no, farei un trattato. E d'altra parte io oggi devo lavorare per il futuro, devo mettere in risalto le cose brutte, l'ho sempre fatto, però devo dare anche una speranza alla mia comunità, perché io credo che questa comunità ha dato prova di grande resistenza, e consentimi il fatto di veder realizzato piano piano tutto quello che abbiamo messo in campo, frutto di un lavoro, frutto anche di grande lavoro delle persone, delle donne, degli uomini qui. Di sacrificio, insomma, vi dà soddisfazione. Qui. Pirozzi, la interrompo un attimo perché vedo purtroppo si passa da una tragedia dovuta a una catastrofe naturale a un'altra invece dovuta agli uomini. A Parigi, leggo questa notizia dell'ultima ora, un veicolo travolge soldati, numerosi feriti, e per ora è soltanto un lancio. Così di un titolo, vediamo poi appena ci sono degli aggiornamenti, purtroppo da questo punto di vista non ci si annoia mai. Rimango intanto su questo tema con Rossella Muroni, che è Presidente Nazionale di Legambiente. Buongiorno Muroni. Buongiorno. Perché Legambiente ha tracciato un bilancio complessivo un anno da quegli eventi tragici del 24 agosto, no? Sì, noi stiamo in questo caso parlando del recupero dei beni culturali e del contributo che è stato dato dal mondo del volontariato. Noi da circa 20 anni, dal sisma del 97, abbiamo squadre di protezione civile e insomma abbiamo calcolato di aver recuperato come Legambiente 3.600 opere da sotto quelle maledette macerie. Abbiamo fatto 88 interventi, si parla di 70.000 scosse in un anno, quindi insomma sicuramente una situazione durissima in cui anche il recupero dei beni culturali è funzionale alla costruzione di un nuovo futuro, perché poi spesso si parla di ricostruzione ma non ci si rende conto che se contemporaneamente non si aiuta le comunità a riscoprire anche pezzi della propria identità che sono dati dai beni culturali, dalle attività produttive, si ricostruisce ma non si sa per chi. C'è credo un ascoltatore tra pochissimo sul tema. Pirozzi, quali sono le prossime iniziative? Allora, lei diceva che entro metà settembre dovrebbero essere tutti sistemati, almeno da Amatrice, con queste casette. Io mi auguro che venga rispettato il cronoprogramma che mi viene dato sempre dalla Regione Lazio. Io insomma monitoro giornalmente lo stato di avanzamento dei lavori, anche se vi dico, io facevo una riflessione: oggi in questa fase di guerra diventa molto difficile anche fare un allaccio dell'acqua, pensate, no? È un anno zero. Io stasera mi vedrò alle 18 con i familiari delle vittime per decidere quello che dovremo fare alle 3.36 del 24. Io penso che le uniche persone che sono deputate per decidere sono loro. Io me ne darò con loro, poi lo decideremo, sicuramente poi in mattinata ci farà la Santa Messa, per quell'ora vedremo insieme quello che è giusto per non dimenticare mai quello che è successo e che noi abbiamo perso. Pirozzi, sentiamo un attimo un ascoltatore che forse vuole intervenire sul tema, all'800240024, Raffaele che chiama da Terni. Raffaele, sì, buongiorno signor Sindaco, non so se già mi conosce a livello di nome e cognome. Abbiamo fatto diverse proposte al Comune di Amatrice, l'abbiamo fatto anche gli altri comuni. Noi siamo un'azienda privata, quindi non abbiamo fondi dello Stato. Abbiamo degli investitori disponibili a investire per la ricostruzione privata, con un etico e solidale. Abbiamo fatto delle proposte, ve le abbiamo mandate, però ho visto che le PEC dei comuni non funzionano, nonostante che c'è la buona volontà nostra per dire ricostruiamo, mettiamoci a disposizione dei comuni, perché giustamente vediamo che lo Stato non interviene, interveniamo come privati, e quindi abbiamo fatto una proposta che è articolata da una società per azioni, che non faccio il nome, e da un consorzio per la ricostruzione del terremoto, che si potrebbe chiamare 24 agosto, e questo qui potrebbe rimettere in piedi quell'economia locale che è tanto discussa, che è tanto chiamata in causa in questo anno che c'è stato dal giorno del terremoto. Raffaele, tu questa proposta, questo progetto a chi l'hai mandato? L'ho mandato ai comuni di Amatrice, comune di Acumoli, ho parlato con i sindaci, ho cercato di parlare, ho telefonato, ma normalmente la burocrazia è quella che ci mangia tutti in questa nazione. Raffaele, scusami. Prego, Pirozzi. E abbiamo in comune con il sindaco Pirozzi, Erika Lucci, che dell'associazione che si sta dando da fare per poter apportare questo progetto, almeno dateci ascolto. Sentiamo Raffaele, intanto ti ha ascoltato Pirozzi, sentiamo cosa risponde. No, ma devi rispondere poco, capite che le iniziative sono tante. La ricostruzione dei privati passa esclusivamente dalla volontà dei privati, perché capite che questo è un settore molto pericoloso, tra virgolette, fermo restando che tutte le iniziative sono belle ed ottime, ma capite che per quello tutte che vanno valutate da la ricostruzione del mondo dei privati, il privato sceglie il progettista, si sceglie il direttore dei lavori, si sceglie la ditta in maniera autonoma. Questo accade dietro la presentazione di un progetto, il progetto deve essere, diciamo, vidimato dall'ufficio della ricostruzione, insomma. Non quindi è un iter complesso, non basta, è una cosa così, anche perché vi dico che la vera paura mia, fermo restando la bontà di chi sta al telefono dall'altra parte, io la mia vera paura è proprio la ricostruzione dei privati, per cui io invito i privati, l'ho fatto più volte, a scegliere le ditte giuste, a dare priorità alla sicurezza. Quindi tutto a norma di legge, i controlli, l'iter. Hai capito? È una questione complessa. Comunque Pirozzi, io intanto la ringrazio e poi vi sentirete anche con i vari che propongono i progetti più direttamente. Mi fa piacere in ogni caso che Raffaele abbia chiamato, però abbiamo capito la questione è un po' più complessa. Grazie Sindaco Pirozzi e buona continuazione, speriamo. Quindi speriamo sempre meglio. Grazie. Rossella Muroni, voleva aggiungere qualcosa prima di chiudere? Sì, guardate, questa vicenda della ricostruzione è una vicenda da attenzionare davvero in maniera importante. Noi abbiamo avuto notizie di una delibera approvata dalla Regione Marche in cui sostanzialmente si autorizza i comuni a andare in deroga ai piani paesistici, a ignorare 30 anni di programmazione territoriale. Così non può essere. Io capisco che è passato un anno diciamo dalla scossa e adesso la politica si ricorda che ha il dovere di dare delle risposte, anche perché ci apprestiamo a entrare in campagna elettorale, ma è fondamentale dare delle risposte giuste. Noi dobbiamo ricostruire bene, dobbiamo ricostruire in sicurezza e soprattutto bisogna assumersi delle responsabilità, bisogna dare delle risposte. Questo è un paese bloccato dalla paura degli avvisi di garanzia da una parte e dall'altra, appunto, poi si fanno accelerazioni dando delle risposte che sono davvero inquietanti, ecco, uso questo termine, perché come si possa pensare di andare in deroga alle regole in un paese in cui le persone sono morte sotto le macerie, certo, rimane un mistero. Questo ricordiamolo, ecco, perché appunto giusti i progetti, le proposte, però devono seguire tutti degli iter, delle valutazioni, delle verifiche. Io intanto la ringrazio, Rossella Muroni, presidente di Legambiente, grazie. E ritorno su questa notizia, prima c'era soltanto un flash che riguarda la Francia, un'auto contro militare in una periferia di Parigi, un veicolo ha travolto un gruppo di soldati francesi dell'operazione Sentinelle a Levallois Perret nel dipartimento di Hauts-de-Seine, alla periferia di Parigi, lo rende noto France Info Radio Report, spiegando che vi sono molti feriti. Da quanto si apprende, nessun militare sarebbe in pericolo di vita, è un'operazione di polizia è in corso per individuare i mezzi. Quindi per il momento ci fermiamo, poi naturalmente su questa notizia, se ci sono altri dettagli, ve li racconto tra pochissimo. Per i vostri interventi sempre il numero verde 800 24 00 24, che è il numero verde per intervenire in diretta con le vostre voci, oppure il 349 238 6666, che è il numero invece per WhatsApp ed SMS. Ma cos'è quest'estate? Insomma, pastiglie per un po' di tutto, dipende, alcune è il caso, alcune non è il caso. Parliamo del, prendo spunto da una notizia appunto di questi giorni, del doping dei tortellini, come è stato definito, cioè la nostra tennista, valente tennista Sara Errani, simbolo del tennis italiano, è risultata positiva al letrozolo, che è uno stimolatore ormonale proibito in questo controllo a sorpresa che le è stato fatto lo scorso febbraio, 16 febbraio, però è arrivata adesso la sanzione e anche la notizia, perché c'era un processo secretato dalla Federazione Internazionale di Tennis e oggi, in realtà ieri è arrivata questa notizia. Oggi tra l'altro dovrebbe esserci poi la sua conferenza stampa di Sara Errani, in cui spiegherà le sue ragioni, che sono già state anticipate. Ecco perché in realtà è stata sospesa per il momento soltanto per 2 mesi dalla Federazione Internazionale di Tennis rispetto ai 2 o 4 anni di tutti questi casi analoghi, perché ha convinto i giudici con una motivazione che magari qualcuno, sulla quale qualcuno potrebbe sorridere, che però ha anche degli aspetti, diciamo, un po' dei risvolti delicati. Lei ha detto che questa sostanza, elettrozolo, è entrato accidentalmente nel suo corpo con un piatto di tortellini in brodo preparato da sua mamma Fulvia Errani. Lei è una farmacista part-time, Fulvia Errani. Questo medicinale, tra l'altro, questa sostanza è utilizzata per curare i tumori al seno in menopausa, e sembra che la mamma di Sara Errani volesse scongiurare una recidiva, stesse prendendo questo farmaco, e dice: quindi mi sono sporcate evidentemente le mani facendo questi tortellini in brodo. Lei tornava da un viaggio all'estero, le volevo fare questa sorpresa, questo piatto, e c'è finito accidentalmente questa sostanza. Ora, al di là del caso specifico, che poi sentiremo appunto dalla conferenza stampa se ci sono delle novità, ma queste dovrebbero essere motivazioni, vorrei chiedere a un esperto quanto sia possibile che nella preparazione di un piatto, di qualcosa di culinario, possa finire una sostanza proibita che, guarda caso, va a finire proprio poi nell'organismo di un super atleta, come in questo caso Sara Errani. E quindi coinvolgo Giuseppe Pieraccini, che è direttore del Centro di Spettrometria di Massa dell'Università di Firenze. Dottor Pieraccini, buongiorno. Buongiorno a lei. Che ne pensa di questo caso, che passerà appunto alla storia come il doping dei tortellini? Sì, è possibile che c'è questo simpatico abbinamento con il tortellino che lo rende quantomeno particolare. Di sicuro è un caso che potrebbe fare in effetti creare qualche precedente, perché le spiego, purtroppo o per fortuna a seconda dei punti di vista, oggi le tecnologie che sono a disposizione per rilevare minime quantità di farmaci e loro metaboliti, quindi prodotti di trasformazione della sostanza nel nostro organismo e quindi poi riscontrabili in urina, ebbene questa sensibilità, dicevo, è molto elevata e permette di andare a rintracciare quantità di farmaco decisamente minime anche. Esatto. E a questo punto nasce il grande problema di dire quanto questa quantità minima in urina possa essere rappresentativa di un programma di doping e quindi utilizzata a fini di influenzare la prestazione, e quanto invece dovuta a una ingestione che può essere involontaria, casuale, fortuita, come quella che è stata descritta in questo caso. Purtroppo la lettura di un unico campione di urina, come è stato questo il caso, non permette di dissipare qualsiasi dubbio né in un senso né in un altro. Certamente le quantità riscontrate nell'urina della signora Errani sono basse, difficilmente correlabili a un'azione, quantomeno nell'immediato, di questa molecola, e quindi difficilmente anche indicativa di un doping desiderato per influenzare la prestazione. Poi si può discutere o meno sulla capacità di questo tipo di sostanze, proprio dei modulatori del metabolismo, nel caso degli inibitori delle aromatasi, come appunto il letrozolo, l'anastrozolo, l'esemestano, altre molecole della stessa famiglia, che funzionano incrementando fondamentalmente la quantità di testosterone circolante nell'organismo, di percentuali minime. Quanto siano poi efficaci per la prestazione o meno è tutto da discutere e da dimostrare. E comunque, ecco, purtroppo si apre in questo caso uno scenario che come può un atleta difendersi in ogni modo da un fortuito contatto con questa molecola. Ho letto ora la sentenza sul caso della signora Errani, poi la signora Errani nello specifico darà maggiori informazioni nella sua conferenza stampa. E purtroppo l'impossibilità di arrivare a una conclusione netta dalla sola lettura del campione urinario ha portato alla valutazione di tutte le diverse situazioni a contorno. È chiaro, presenza della signora Errani a casa, dove c'è una madre che è regolarmente trattata con un farmaco che contiene quel principio attivo. È possibile che minime quantità del farmaco siano cadute nel brodo, nell'impasto dei tortellini, come mi pare sia stato indicato in questo specifico caso, o anche in contatto con posate, piatti o altro. Io le dico, per in passato sono stato coinvolto, in quanto mi venne chiesto un parere per il caso del canottiere Niccolò Mornati, anche lui trovato positivo per la stessa molecola, e anche lui si sottopose a una prova in casa sporcando con piccoli rimasugli della compressa che la madre assumeva per terapia la forchetta, il piatto, eccetera eccetera, ebbene sono risultate urine positive. Purtroppo lui tra l'altro era positivo per concentrazioni urinarie nettamente inferiori, perché era al di sotto del nanogrammo per ml. A questo punto però bisogna valutare tutte le probabilità, il regolamento WADA apre a questo, valutare tutte le possibilità, tutti gli scenari e dire se questo, lo scenario dipinto e proposto, è plausibile, coerente, credibile. E purtroppo questo sta molto all'abilità poi del consulente legale e dell'atleta nel dare... Comunque, da quello che lei dice, appunto, poi sentiremo una conferenza stampa, non ho capito, però sono definitivi questi 2 mesi al momento, non potrebbero aumentare, no? Penso che sia stata... Penso di no, perché dovrebbero essere arrivati... La sentenza, infatti, no? Sì, definitiva, esatto, della Federazione Internazionale di Tennis. Poi sentiremo cosa dirà Sara Errani appunto oggi in questa conferenza stampa, però da quello che lei ha spiegato, dottor Pieraccini, evidentemente, al di là di questo caso specifico, può capitare che anche una piccola dose di principio attivo così involontariamente vada a finire nel cibo e poi sia riscontrabile nell'urina. Ahimè sì. Lì tutto sta fondamentalmente all'attenzione che pone la persona che circonda l'atleta, e quindi nel caso specifico la madre, da quello che ho letto è stata descritta che una situazione per cui ogni tanto poteva succedere, prendendo la madre in cucina per ricordarsi le scadenze, le teneva lì, e quindi in concomitanza con la preparazione di pranzo e cena, o colazione e cena, ora non ricordo esattamente, lei aveva lì accanto il blister con le compresse e le assumeva. Può succedere, aprendo un blister, che una pasticca cada, e se è caduta nell'impasto dei tortellini, visto che ahimè queste sostanze sono a basso dosaggio e si rilevano molto bene in urina, e non si può escludere fondamentalmente che anche questa situazione descritta possa avere una certa... Possa succedere, insomma, vogliamo sperare nella buona fede di Sara Errani, visto che è il simbolo del tennis italiano. Le posso dire il mio parere, sì. Chiaramente è che io non ricorrerei a questo tipo di sostanza per doparmi, perché ha un tempo di permanenza nell'organismo molto lungo, si parla di ben oltre una settimana, quindi perché rischiare per una molecola che tra l'altro, anche questo, almeno dai testi... Non dà grandi prestazioni? No, l'incremento che potrebbe dare è decisamente trascurabile, mi rivolgerei ad altro, ecco. Se proprio dovessi incrementare la prestazione. Chiarissimo. Grazie professor Giuseppe Pieraccini, grazie all'Università di Firenze. Grazie, buona giornata. Buongiorno. E non è però una buona giornata, sembra, per Parigi, perché torna l'incubo attentati. C'è la nostra Laura Bettini qui in studio adesso, che ci sono altri dettagli, Laura. Buongiorno, sì Roberta, no, non ci sono molti altri dettagli, si va un po' chiarendo la situazione, non è ancora chiaro se si è trattato di un attacco terroristico o di qualcos'altro, il fatto certo è che un veicolo è attivamente ricercato dopo aver investito una pattuglia di soldati che tra l'altro fanno parte proprio delle squadre antiterrorismo che stanno controllando la capitale francese. Questo è accaduto in un quartiere periferico verso l'area, diciamo, nord-ovest, ci sono 6 militari che sono rimasti feriti, 2 in modo grave. grave, dice la radio francese, gli altri quattro più levemente e questo veicolo ricercato. Questo è quello che si sa al momento. È chiaro che la situazione, diciamo così com'è, si configura come un possibile attacco. Chiaro, perché come Parigi tale purtroppo viene trattato. Ha vari altri tragici precedenti, come sappiamo. Speriamo che in questo caso si possa trattare magari di un ubriaco, nel senso... Come è capitato tra l'altro in Italia, adesso non andando addosso a una pattuglia, diciamo, di militari, però abbiamo anche noi avuto i nostri momenti di angoscia, poi si è capito che si trattava purtroppo di una distrazione comunque colpevole, però almeno non si trattava di un attentato terroristico. Comunque monitoriamo, poi ci sono naturalmente poi i giornali radio per vedere se ci sono ulteriori dettagli. Laura Bettini, per il momento quindi grazie. È tutto, mi sembra. Grazie Laura. Adesso, tra pochissimo, parleremo invece, mi piacerebbe sentire la vostra opinione su questo tema un po' più leggero, se secondo voi effettivamente l'italiano rispetto al francese o lo spagnolo, perché certi hanno una certa sensibilità anche proprio con la lingua spagnola, qual è la lingua più sensuale secondo voi, con quale ascoltate con più piacere all'orecchio? Cioè, per esempio, ci sono alcuni film di Pieraccioni dove è sempre presente magari la ragazza bella spagnola, e c'era anche un altro film, mi ricordo, dove un pesce di nome Wanda, se non sbaglio, che quando sentiva lei parlare qualcuno in spagnolo non capiva più niente. C'è un sondaggio di un'applicazione che traduce le varie lingue, che secondo il quale anche il 40% dei francesi ritiene che la lingua più sensuale sia l'italiano. Quindi, nonostante, diciamo, i rapporti piuttosto complessi nelle ultime settimane, in particolare tra, ma non solo, nelle rivalità tra Francia e Italia, tra la questione dei cantieri navali, il ruolo da giocare in Libia, la questione dei migranti, su questa cosa invece sembra che ci sia un certo apprezzamento da parte dei francesi. C'è però Franco da Brescia, prima volevo, sto guardando varie cose contemporaneamente in questo momento, sul terremoto, dice un ascoltatore, ritornando sul tema di prima, il 349-238-6666, dice: ma io ho capito che l'azienda è privata, quella dell'ascoltatore che aveva chiamato il sindaco Pirozzi qui in diretta, proponendogli un progetto per la ricostruzione, dice: avevo capito che l'azienda è privata, si è rivolta al comune, non ai privati. Ma certo, Vittorio da Vignola, è un'azienda privata che si è rivolta al comune, ma giustamente Pirozzi da sindaco ha detto: riceviamo tante proposte, ma c'è tutto un iter da seguire, non è che possiamo dare subito noi tranquillamente il via libera a una qualsiasi azienda che si propone. C'è tutto un iter burocratico, ma anche di verifiche, di valutazioni, che devono essere tutte a norma di legge. C'è un ascoltatore in linea, che è Franco da Brescia, all'800240024. Franco? Sì, buongiorno. Buongiorno Franco. Intervenivo ancora per il discorso dell'acqua, forse un po' in ritardo. Tre cose velocissime, io mi occupo di agricoltura e anche di allevamento. Dove eri Franco? Franco, dove eri prima, visto che sei in ritardo? Cosa stavi facendo? No, forse in ritardo nel senso che adesso so che sta trattando un altro argomento, ma ero in macchina e vi ascolto. Vabbè, sei perdonato e puoi comunque parlarne, visto l'argomento. Solo una cosa veloce, sì. Ammiro Tozzi e tutti questi scienziati che veramente si impegnano, però, se posso dire però, dire di mangiare meno carne per inquinare meno può essere vero, ma può essere anche, come dire, ho mal di piede se cammino, quindi non cammino così non ho più mal di piede. Penso ci siano altre soluzioni. È un pochino diverso, diciamo che uno dei possibili ambiti di intervento, cosa, non certo quello più incisivo. Sì, sì. Solo una cosa mi permetta, studi del Ministero dell'Agricoltura dal 2015-2016 dimostrano, secondo loro, non so se è vero, che l'agricoltura incide poco nell'inquinamento, ma anche lì sono cose politiche. Però direi, per un agricoltore, io ci lavoro assieme, consumare meno acqua e riciclarla vuol dire risparmiare soldi. Per l'industria riciclare l'acqua vuol dire spendere più soldi. Ho lavorato anche in acciaieria, lo spreco annuale di acqua per un'acciaieria è immenso, e dico spreco perché evapora e non si sa dove va a finire, e spesso è inquinata, ma serve anche all'agricoltura, serve anche all'industria. Troviamo una via di mezzo, escludendo un attimo la politica e le idee, diciamo, politiche che si possono avere quando si trattano questi argomenti, parlando solo di numeri come fa Oscar Giannino, che seguo spesso, che si occupa di numeri e non di politica spesso. Tutto qui. Grazie Franco da Brescia. C'è, prima della viabilità, poi tra poco cambiamo argomento, c'è anche Danilo da Chieti? Pronto? Eccoci Danilo. Pronto? Buongiorno, sì, ci sei. Buongiorno, vorrei dire questo. Come mai non chiamate mai il professor Antonino Zichichi, cattolico, che parla dei problemi ambientali e che, noi, che è in opposizione a certe teorie della sinistra. Diciamo, la sinistra guarda l'ambiente per combattere il capitalismo in generale, i sistemi liberali, come hanno fatto prima nel 68, hanno combattuto sul piano economico, adesso stanno provando... Cioè tu dici una questione, l'ecologia, il voler salvare il pianeta o almeno cercare di prendere delle misure per prevenire un peggioramento dei cambiamenti climatici è una questione politica di sinistra, perché dici è finalizzata a combattere il capitalismo, l'imperialismo eccetera, quindi non è una cosa che riguarda tutti, non è comprovata scientificamente, è solo ideologia? Danilo, ti stiamo perdendo, Danilo, ma involontariamente c'è la viabilità. Ma cos'è quest'estate? Queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava. Beh, brava, naturalmente. Mina, come lei stessa si dice, e con questo scioglilingua famosissimo, ci porta a parlare di questa classifica in cui ci sono anche i francesi che hanno votato l'italiano, nonostante questi difficili rapporti, vi dicevo, sempre di rivalità tra la Francia e l'Italia, che vanno avanti su tanti argomenti da anni, e adesso ce ne sono di nuovi, come vi dicevo, no? I cantieri di Saint-Nazaire, il ruolo da giocare in Libia, la questione dei migranti con Macron, però che i francesi apprezzino l'Italia viene confermato da questo sondaggio realizzato appunto da Babel, che è un'applicazione per lo studio delle lingue. Per il 40% dei francesi l'accento italiano è il più sexy, quindi stracciato l'inglese, che vabbè, almeno al mio parere personale di sexy non ha nulla, che è al 23% delle preferenze, lo spagnolo al 18%, ma l'apprezzamento della lingua evidentemente è solo appunto una conseguenza di questa simpatia per il bel paese, più per gli italiani magari che per l'Italia stessa o la sua politica. Su scala mondiale, su 15.000 interpellati, in realtà il francese risulta la lingua più sensuale al 33%, però è interessante questo dato, che il 40% dei francesi vota l'italiano. Allora, su questa questione di lingua e di sensualità e di preferenze, coinvolgo Valeria Della Valle, che è professoressa di linguistica italiana alla Sapienza di Roma, coordina con Giovanni Adamo l'Osservatorio Neologico della Lingua Italiana e poi ha scritto molti saggi sull'italiano. Sa di cosa parla, Valeria Della Valle? Ciao. Sì, ciao, buongiorno, eccomi. Che, cioè, una linguista, una che si occupa di italiano, non potrà che dire sì, è la lingua più sensuale, o hai un parere diverso? No, un parere diverso, perché questo, questi dati e questo sondaggio, come del resto il risultato di molti sondaggi in rete, in realtà non ha nessuna base scientifica, non fa che constatare quella che è una percezione, e le percezioni, come un po' quella del caldo in questi giorni, insomma, varia da persona a persona. Quello che è interessante però, e questo non può che farci piacere, è il cambiamento generale di prospettiva e di atteggiamento dei francesi, o dei par francesi, diciamo meglio, che hanno partecipato a questo tipo di inchiesta nei confronti della lingua italiana. Ma lo dico perché la polemica tra l'italiano e il francese non è, parlo solo di fatti linguistici, non è un fatto recente, data addirittura dal 600. La polemica nacque allora, quando le due lingue si contrapponevano come le maggiori lingue di cultura dell'Europa colta del tempo. E che cosa successe allora? Ma che ci fu una polemica veramente molto accesa, perché l'italiano veniva considerato dai francesi e naturalmente dalle autorità francesi in fatto di lingua come una lingua adatta solo per cantare, una lingua svenevole, una lingua fatta solo per l'amore, quindi ecco che andiamo vicino alla lingua sexy, mentre il francese veniva considerata l'unica lingua adatta per ragionare. non parliamo dello spagnolo, che invece veniva considerato una lingua adatta al massimo per declamare in maniera enfatica. Quindi la storia è lunga, viene da lontana, da lontano. Evidentemente noi abbiamo fatto dei passi avanti nel dare l'impressione di una lingua, però insomma questo fatto non nasce solo dall'oggi, ma ha dietro di sé molti elementi. Penso solo a un fatto, dal 600, dal 700, la lingua italiana è stata la lingua del melodramma, quindi la lingua delle opere in musica. Insomma, Mozart, i libretti delle opere di Mozart erano in italiano, anche se lui non lo era. Pensiamo a un personaggio come Don Giovanni, legato ovviamente a un'idea della sensualità, dell'amore, dell'erotismo, noto in senso mondiale. Ecco, da tutti questi elementi, pensiamo solo all'espressione dolce vita, no? Che evoca in sé qualcosa di dolce, ma anche di sexy, di affascinante. Valeria, ci sono già degli ascoltatori, sia al numero verde 800240024 che al 349-238-6666, che è il numero invece per WhatsApp ed SMS. A questo numero, per esempio, questo ascoltatore, vediamo se riesco a aprire il WhatsApp in tempo utile, Riccardo, provincia di Venezia, dice: un pesce di nome Wanda del film. Nel doppiaggio italiano la scena citata è recitata in spagnolo, ma nella versione originale è in italiano, lingua sensuale. Aspetta, sentiamo anche allora un altro ascoltatore dice: i francesi si sbagliano, evidentemente. Io personalmente devo dire che sentirsi sussurrare qualcosa in francese, allora, insomma, fa un certo effetto. Mentre Andrea da Milano, qual è la tua preferenza, Andrea? Buongiorno a tutti, complimenti alla professoressa, dottoressa, per tutto l'escorso storico che ci ha fatto. La mia invece è una cosa, un'opinione molto più pratica. Secondo me sentirsi sussurrare parole d'amore da una spagnola che parla italiano è il massimo. Tu hai avuto questa esperienza dal tuo tono, è vero? Dal punto di vista maschile, presumo che forse ancora meglio da un'argentina o da un argentino. O da un argentino, perché ha anche un'inflessione particolare. Ma quindi ha avuto un'esperienza anche lei? Bah, diciamo così, ci scambiamo così le esperienze. Grazie Andrea, grazie. Arrivederci, a presto. Per la simpatia anche. Marco da Brescia, sempre all'800240024. Marco? Buongiorno, anch'io volevo dire che preferivo la lingua spagnola, cioè chiaramente non, dovendo escludere l'italiano perché è la mia lingua madre, chiaramente preferisco lo spagnolo rispetto al francese. E anch'io volevo precisare il discorso che nella versione internazionale del Pesce di Nome Wanda era stato usato l'italiano come lingua più sensuale. L'hanno dovuto usare per l'Italia lo spagnolo, altrimenti era un film senza differenze di lingua, ecco. Grazie Marco anche per questa precisazione. Valeria Della Valle, gli uomini preferiscono lo spagnolo? In questo caso sì, se dovessimo fare una percentuale sulla base dei nostri ascoltatori, ma questo conferma il fatto che insomma, per ognuno di noi la lingua più sensuale o la lingua più bella è quella legata alle esperienze che abbiamo avuto o che abbiamo. Io sono convinta che anche una frase d'amore sussurrata in cinese sarebbe per noi la migliore. Sarebbe interessante del mondo, se qualcuno in collegamento e in ascolto potesse dirci in cinese come si dice ti amo. Per esempio, c'è un altro ascoltatore che scrive: Marlene Dietrich rendeva sensuale perfino il tedesco. Beh, un ich liebe dich, detto in un certo modo, appunto, suo effetto, no? Questo conferma che si tratta sempre un po' di... Ma è come quando diciamo che l'italiano è la lingua più bella del mondo. E lo è. Sì, insomma, in parte possiamo condividerlo, però per ognuno di noi, per ogni essere umano, la lingua più bella del mondo è quella nella quale ha imparato a parlare, è quella della propria mamma, dei propri genitori, quella con la quale è cresciuto. Quindi il sondaggio è molto divertente, ci può far piacere, però ripeto, non è un sondaggio che può corrispondere in alcuna maniera a qualche base scientifica, non c'è di ordine scientifico, però diciamo che le preferenze ci sono e sono sempre un po' nelle prime in classifica, se la contendono il francese, l'italiano, lo spagnolo, così, diciamo, no? Difficile così, che qualcuno siamo contenti. A qualcuno piace anche il russo, insomma è questione di gusti, però diciamo quelle che sempre si battaglia, sono un po' in rivalità, diciamo, su questi gusti, no? Nel sussurrare all'orecchio sono sempre queste tre lingue. Valeria Della Valle, ti ringrazio per questo excursus storico, scientifico, ma tutto. Linguistico e tutto il resto. È tutto il resto. Simpatico. A presto, grazie, dai. Valeria Della Valle. Adesso devo dare, cercavo il modo di chiudere, perché devo dare adesso voce a Laura Bettini, a nostra Laura Bettini, che è tornata ci sono delle novità sempre su questa cosa che è successa a Parigi. Laura, vi faccio solo un piccolo aggiornamento, poi ci ritroviamo in GR24. Il sindaco di Levallois-Perret, che è appunto la località in cui è accaduto, ha parlato poco fa di un atto deliberato, ha descritto quello che è accaduto. Il veicolo, dice, era posizionato contromano in attesa che la pattuglia uscisse dalla casa e poi gli si è lanciato contro, quindi insomma farebbe tutto pensare non a un incidente come avevamo sperato poco fa, ma a un attentato vero e proprio. E si tratta appunto di, mi sembrava di aver visto che si tratta di una BMW, quindi... una BMW si sta cercando, quindi un'auto piuttosto grossa e quella che ha investito appunto questa pattuglia di militari, che ricordo sono sei i feriti e due di questi particolarmente in gravi condizioni. E questo, tra l'altro, questo tipo di attacco, se si conferma che di attacco si tratta, Laura, è proprio questa, diciamo, terribile novità che si è inaugurata con Nizza, no? Tra l'altro, proprio lo stesso tipo di attacco. Ricordo che questa pattuglia di militari fa parte dell'operazione Sentinel, con la quale appunto si controllano le strade di Francia in missione antiterrorismo, e immagino che fossero quindi super armati e super accessoriati. Insomma, solo un attacco di questo tipo, ecco, poteva andare a segno contro di loro, probabilmente. Grazie, Laura Bettini. Poi gli altri aggiornamenti nel giornale radio. Ciao Laura, adesso ci dobbiamo lasciare anche noi. Roberto Giordano vi ringrazia per il vostro ascolto, per tutti i vostri messaggi, i vostri interventi. Ringrazio naturalmente alla parte tecnica Paolo Corleoni, e poi Cristian Goldoni, Barbara Bianchi, Chiara Compagnoni, e ai telefoni sempre la nostra Rosina. Direi che come sempre in questa, ma cos'è quest'estate, noi ci sentiamo domani alle 8.